Noi sabato prossimo scendiamo in piazza per la manifestazione sul coordinamento immigrati, soprattutto per noi le donne immigrati che siamo qui, che soffriamo tanto prima di questa pandemia, anche ora è ancora peggiorato. Noi per questo abbiamo chiesto se ci potevano ascoltare e magari fare una marcia a qualche parte, magari questo potrebbe cambiare, perché siamo molto in difficoltà da quando siamo qui, non c'è tante possibilità per noi, soprattutto noi le donne, e una donna quando non ha una sicurezza, la pericolosità è proprio vicino a lei. Il problema è sempre quello di riuscire ad avere il permesso di soggiorno. Esatto, prima di tutto se devi aiutare una donna, la indipendenza è quello che gli serve prima, il permesso soggiorno, e così potrei trovare un lavoro, potrei tenere una casa, una residenza con i suoi figli, che ci sono tanti di noi, ci troviamo tante in difficoltà, se anche trovi un affitto dopo l'accoglienza, perché ora come si dice, non hai il documento, ne hai avuto il nego 3 volte, 5 volte anche, quindi sei fuori nell'accoglienza, non hai più nessuna opportunità, quindi si diventi proprio invisibile tra tutti. Essere invisibile da sola anche si può capire, però anche con i figli questo è ancora più pericoloso, perché quando un bambino si mala, dove lo porti? In pronto soccorso, perché non puoi chiamare il medico di base, non puoi andare dal tuo medico di base, perché non ce l'hai in realtà, perché non hai la residenza e non hai un documento, la carta sanitaria, quindi ti trovi anche, poi avere la casa e la residenza dentro l'accoglienza, però non puoi avere, non è il medico di base, hai 5 figli, i 3 ce l'hanno la carta sanitaria, i 2 non ce l'hanno, e quelli 2 lì si diventano invisibili sulla salute, anche in tutto il modo, quindi noi per questo vogliamo veramente questa volta che ci sentono, non è solo perché immigranti, ma donne immigranti, noi soffriamo tanto e questo deve cambiare, ecco.